Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, nella prima trasmissione del 1998, a proposito buon anno, parleremo del Natale del sindaco, del racconto del giorno dopo e del racconto di due giorni dopo, di facce, nonché di tradizioni e folklore di Sicilia.